ciao a tutti e bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time, per l'esattezza la 16ª puntata di Soul Time qui sulle frequenze di Radio Wombat Firenze. Iniziamo questa nuova puntata con una voce leggendaria, la voce è quella di Wilson Pickett, di cui abbiamo ascoltato tantissimi brani già in questa trasmissione, sicuramente ne ascolteremo altri. Per iniziare appunto questa puntata, vi voglio far ascoltare questa versione di Wilson Pickett pubblicata su etichetta Atlantic esattamente nel luglio del 1969 di un brano straconosciuto. Il brano in questione è Hey Joe, straconosciuto in particolare proprio per la versione registrata nel dicembre 1966 e pubblicata nell'album Are You Experienced del 1967 del grandissimo Jimi Hendrix. Questo brano è stato attribuito inizialmente a Dino Valenti ed è un brano blues in cui poi i diritti d'autore furono rivendicati nel 1962 da Billy Roberts, quindi un brano legato indissolubilmente alla figura di Jimi Hendrix, la cui versione è sicuramente la più conosciuta, ma non tutti sanno che appunto nel 69 Wilson Pickett registrò questa bellissima versione di Hey Joe che ci andiamo subito ad ascoltare. Where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, I wanna know where you going with that gun in your hand. I'm going downtown and shoot my old lady, 'cause I caught her messing around with another man. Oh, yes, I did. Shoot my old lady, I caught her messing around with another man. Hey Joe, I heard you shot your woman down, shot her down to the ground. Questo era Wilson Pickett con la sua bellissima versione di Hey Joe, accompagnato per l'occasione agli assoli di chitarra da Duane Hellman. Proseguiamo con la nostra selezione e ci andiamo ad ascoltare passiamo da una grandissima voce, quella di Wilson Pickett, ad un'altra grandissima voce che è quella di Wade Flemons, Wade Herbert Flemons all'anagrafe, nato in Kansas nel 1940 e scomparso nel 1993, appunto un cantante soul americano le cui prime registrazioni si vanno a collocare nel 1958, ma che è meglio ricordato per il suo lavoro come musicista e cantante nella band Earth, Wind and Fire tra il 1971 e il 1972. Però alcune delle canzoni di Flemons sono ancora tuttora conosciutissime e ballate in tutto il mondo all'interno della scena Northern Soul, in particolare voglio ricordarvi That Other Place e la bellissima Jeanette, registrata nel 1968, e ci andiamo ad ascoltare proprio di Wade Flemons, Jeanette. Pezzo questo di Wade Flemons, Jeanette. Quindi proseguiamo con il prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare, è quello di Garnet Mims, che si intitola Looking for You. Garnet Mims è nato nel 1993 ed è un cantante americano molto molto importante nella musica soul e nel rhythm and blues, conosciuto principalmente come Garnet Sims e il suo gruppo che lo accompagnava, Garnet Mims and the Enchanters. È una, la loro hit più conosciuta è una hit del 1963 che si intitola Cry Baby, successivamente interpretata e fatta conoscere in tutto il mondo da Janis Joplin. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo brano bellissimo di Garnet Mims, un'altra hit assoluta della scena Northern Soul, che non è quello che ho citato prima, ma ci ascoltiamo Looking for You, Garnet Mims. Al suo periodo da solista in cui lavorava per la United Artists dopo aver lasciato gli The Enchanters dal 1964. Quindi proseguiamo con la musica e ci andiamo ad ascoltare questo brano dei The Metros che si intitola Since I Found My Baby. I Metros sono uno dei gruppi in realtà meno conosciuti della scena di Detroit che hanno registrato su una grande etichetta, la RCA Records, però hanno lasciato delle gemme assolute. Una di queste è proprio Since I Found My Baby, The Metros. Nights don't seem long since I found my baby. I don't need nobody to tell me what I need. I Found My Baby dei The Metros, questo brano del 1967 registrato per l'etichetta RCA, in cui questo ritmo incalzante è letteralmente adorato dai collezionisti Northern Soul. Quindi il prossimo pezzo già pronto è un pezzo di Patti e di Emblems, un gruppo americano formatosi a Camden nel New Jersey, che ha registrato la sua hit più famosa, che si intitolava Mixed Up Shook Up Girl, nel 1964, ma hanno continuato a registrare per pochi anni fino al 1967, riscuotendo un discreto successo. Ogni membro, eccetto Patti Russell, hanno lasciato la scena musicale, però in questi pochi anni di registrazione hanno lasciato dei brani assolutamente bellissimi. Uno di questi è proprio quello che stiamo per ascoltarci, si intitola I'm Gonna Love You a Long Long Time, Patti and the Emblems. Con il brano I'm Gonna Love You a Long Long Time. Il prossimo brano che sta per arrivare è uno dei miei brani preferiti in assoluto ed è un classico totale della scena Northern Soul. Il brano in questione è di Willie Mitchell e si intitola That Driving Beat. Willie Lawrence Mitchell è nato nel 1928 e scomparso nel 2010. È stato un trombettista, leader di band americano, che ha svariato in diversi generi come il soul, l'R&B, il rock and roll, il pop e il funk. Lavorava per gli Royal Studios a Memphis, nel Tennessee. Ci ascoltiamo questo pezzone assoluto di Willie Mitchell, che si intitola That Driving Beat. Go! Willie Mitchell con That Driving Beat. Proseguiamo con un altro gruppo importantissimo della scena Northern Soul, in cui tanti loro brani vengono ascoltati e ballati ogni weekend. Il prossimo brano è dei The Formation ed è un brano anche questo molto conosciuto agli amanti del genere. Si intitola At the Top of the Stairs e può essere sicuramente considerata la punta di diamante di questa formazione, il loro classico più assoluto di questa band formatasi a Philadelphia nel 1966. Quindi ci ascoltiamo quest'altro pezzone in At the Top of the Stairs, The Formation. Il prossimo brano, che è già pronto il tempo di sistemarlo, eccolo qui, è di una figura fondamentale della musica americana e in particolare della scena funk e soul di New Orleans. La figura in questione è quella di Willie T, un artista americano, pianista, scrittore, cantante e produttore appunto della scena di New Orleans, di cui fu un protagonista fondamentale sicuramente per diversi decenni ed aiutò proprio la scena di New Orleans ad assumere una propria forma e un proprio linguaggio indipendente. E anche appunto Willie T ci ha lasciato sicuramente dei brani bellissimi ed alcuni brani di Willie T sono entrati nell'immaginario comune e nelle sale da ballo della scena Northern Soul. Ci ascoltiamo questo brano di Willie T che si intitola Walking Up e One Way Street. Crying, baby, and my tears are flowing just like rain. Well, I'm all alone and blue as can be, and I'm walking up a one-way street. I It don't take much to please me. But every day here lately seems like all you do is tease me. Well, I'm all alone in blue as can be, and I'm walking, walking, walking up a one-way street. Yeah. Questo era Willie T con il brano Walking Up on One Way Streets. Il prossimo brano invece ci andiamo ad ascoltare un altro gran pezzo, ed è un pezzo di Archibald and the Drells. Archibald and the Drells sono stati un gruppo vocale R&B statunitense attivo dal 1966 al 1980. Hanno pubblicato diversi singoli di successo, in particolare a partire dal 1968 con I Can't Stop Dancing o altri brani celebri come Tighten Up o Here I Go Again. E ci andiamo ad ascoltare proprio Here I Go Again, pubblicato su etichetta Atlantic. Su questo 7 pollici, Archibalds and the Drells, Here I Go Again. Archibald and the Drells con Here I Go Again. Proseguiamo con un'altra voce importantissima per quanto riguarda la musica soul. La voce è quella di Nolan Porter, all'anagrafe Nolan Frederick Porter, nato nel 1949 a Los Angeles, uno scrittore e cantante R&B che ha registrato soltanto 2 album e 6 singoli durante gli anni 70. Uno dei brani che ha registrato, tra i pochi che ha registrato, è sicuramente un brano bellissimo, e si intitola If I Could Only Be Sure. Lui è Nolan Porter. If I could only be sure that you love me, baby. If I could only be sure that you love me, baby. I'd climb the highest mountain, I'd swim the deepest sea. I'd take on all your misery just to make you happy. If you just let me love you, baby. If you just let me love you, baby. Mm-hmm. If I could read your mind, sin and love me, darling. Mm-hmm. If I could read your heart, sin and never leave me. Oh no. There isn't anything I would do. If you just let me love you, baby. If you just let me love you, baby. Ok, questo era Nolan Porter con If I Could Only Be Sure. Passiamo ad un'altra grande voce e un grande, grande pezzo, che è quello di Willie Davis, che si intitola I Learned My Lesson, con un occhio all'orologio perché il tempo a disposizione sta per terminare, quindi a occhio e croce direi che questo è il penultimo pezzo. Quindi ci ascoltiamo Willie Davis con I Learned My Lesson. When I was just a bad little boy, my mama used to tell me, son, you gotta read just what you sow. And I remember when I was 82, my mother used to spank me, said, Davis, and after I growed up, I had myself a little love. I had a good woman, but I just didn't know how to treat her right. Sometimes back. Every day, every day, every night, every night, when I come home, I'll make your darling fight. Oh, baby, late one afternoon. I decide I'll return back home. My baby said, Davis, you know you're wrong. She said goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. And so long. Said goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. You know that you're wrong. You said I've been a good wife. I stood by your side. You said goodbye. Goodbye. Leave me alone. Said goodbye. Willie Davis con I Learned My Lesson, questo bellissimo lentone. Quindi ci è rimasto il tempo di un ultimo pezzo e vi propongo questo classico del Northern Soul. Lui è Cliff Nobles e il pezzo si intitola My Love Is Getting Stronger. Clifford James Nobles, nato nel 41 e scomparso nel 2008. Piccola nota di colore, a un certo punto della sua carriera, dopo diversi successi come la sua hit strumentale The Horse, molto molto famosa, e aver fondato una propria etichetta discografica in cui in realtà lui non suonerà mai soltanto una nota o non canterà mai soltanto una parola, improvvisamente lasciò quella che la possiamo definire l'industria discografica per andare a lavorare in una ditta di costruzioni e elettricità. Quindi ci ascoltiamo questo pezzone di Cliff Nobles, My Love Is Getting Stronger. Io vi saluto e potete riascoltare questa puntata sul podcast, sul link che troverete sulla pagina di Radio Wombat, e noi ci risentiamo in diretta mercoledì prossimo alle 19 con Soul Time su Radio Wombat.